Lasciarti, forse poi lo che rivedrò, Nascondi quel sangue d'ogni sguardo. Ma te, consiglio, questa sentenza. Parti, saprei tutto dov'è. Ma quel pallore, padre, quei sospettosi sguardi m'empiono di terrore. Gelo, in udirti così con pena, articolar gli accenti e parla. Dimmi, dimmi che tu sei vendicato. Per se mori per questa man! Che dici? Che sei tu? Che facesti? Amato figlio, il tuo riasso mi punse, sono reo per te! Per me sei reo! Mancava questa le mie avventure, e tu che speri? Un gran pelor disco, forse tu regnerai! Parti al disegno necessario che avresti! Io mi confondo in questa rete come ancora, Dio. Parti, non più, lasciami in pace. Che giorno è questo? E che giorno è questo? Oh, disperato re pace. lei. Il primo passo obbliga gli altri, il fratello mano sulla metà del colpo. È un parsireo senza sperarne il frutto. Ecco il principe all'arte, all'insolito ci qual tumulto. Ah, signor, tu in questo luogo prima del dì, chi ti verso nel seno quelliva che lampeggia in mezzo al pianto. Caro Artabano, o quanto necessario mi sei, consiglio, aiuto, vendetta, fedeltà. Principe, io tremo al confuso comando, spiegati meglio. Oddio, svelato il padre mio, giace colà sulle tradite piume. Come? Non so, di questa notte funesta, in fra i silenzi e l'ombre, assicurò la colpa un'alma ingrata. O insana, o scellerata, sede di regno. E qual pietà, quel santo vincolo di natura, e mai bastante aprirà le tue furie. Franco, intendo. È l'infedel Germano, è Dario il freno. Ma se qualcun te senta pietà d'un retrafitto, orrore del grande litto, amicizia per me, vada, punisca il parricida, il tradito. Custodi, vi parli in alta serse un prenge un figlio, e se volete lui vi parla il vostro errore, compite in cielo, fuori del reo. Ferma, ove corri, ascolta. Chissà che la vendetta non turbi il genitor più che l'offesa. Dario è il figlio di Serse. Io sarebbe un pietoso consiglio. Chi uccise il genitore non è più figlio. Oh, l'anima si svena. Ah, me da vise, non ho si va dal cenno a rivocare. Signore, che fai? È tempo, è tempo ormai, dirmi qual è il tuo primo dovere. Io non può chiamare, ad essere umano, più male che mi insegnò. Ma non è Gio imitarlo nei falli, il suo delitto non giustifica il mio. Qual colpa al mondo un esempio non ha? Nessun erreo se basta falli sui per difesa portare l'esempio altrui. Ha ragion del lavoro e il difendere se stessi e vive t'uccide se non uccidi. Il mio periglio appunto impegnerà tutto il favor di Giove del reo Germano ad involarmi all'ira. Dove principe dove? A Dio se mira. Mi fuggi alta sesso, sentimi non fruti. Lascia che vada, non arrestarmi. In questa presa cogli, ti sospiro per te. Se più d'ascolto, troppo se mia, il mio dovere offendo. Tu è ingrato, il tuo disprezzo intendo. accettar che pria del dolore il padre armato incontro e non mi parla accusa il cielo agitato da sé se m'abbandona Megamese che tu se tu lo sai determina il mio cuore fra tanti suoi timori un sol timore e tu solo non sai che perso ucciso fu poc'anzi nel sonno che il cuore lo uccisone e che la reggio fra le gore e fra te che lo ascolto or tutto intendo misere noi misera Persia folle se paventi avremo ancora in Persia avremo purtroppo di sperentir si vergi il sangue e rivoli germoni e non del trovo qualunque vinca indifferente io sono nei disastri d'un regno ciascuno parte ciò che fa l'infinito porta senza il dolor ma senti voi d'un labbro fedele che non si disfruta scegli l'amante e guarda il grado tuo sai che il dolore tu puoi tanto stemore e se me vorrei volessi nobre gran consiglio io ricordati ben mio te che t'adoro veramente il consiglio detto di te ma voglio venderne un altro in ricompensa e parmi più opportuno del tuo lascia d'amarmi che impossibile sono vedete e non amarti quando io costruire se volete il mio cuore l'alma qui che non ho sogno e fico Thank you. Perdere per troppo tempo, perdere Cerco in vano tartamano e denario. E portamano, signore, amico, io di che cerco? Ed io vengo in traccia di te. Forse paventi? Sì, temo. E non temere, tutto è compito. Arda serse, mio re. Dario è punito. Lumi! O sventura! Il parricido perse l'incauto, il petto alle ferite. Oddio! Tu sospiri. Ubbidito fu il cenno tuo. Ma tu dovevi il cenno più saggiamente interpretar. L'orrore, il vento suo, dovevi prevedere. Dovevi al fine compatire un figlio che perde il genitore, nei primi moti un violento ardore. Artaserse, respira. Qual mai ragion se mia, insiliato sembianti a noi ti guida. Dario, non è di sé, se parricina. Che sento? E come li sai? C'è il veneresco dell'intento uccisore. Presso le mura del giardino reale, prima di due squadre rimase prigioniere. Il reo lo scoperse, la fuga, il loco, il ragionar confuso, il pallido sembiante e il sofferro di sangue ancor fumante. Dov'è l'indegno, conducetelo a me. Del prigioniero vado l'arrivo da frettare. T'arresta, Artamano, Semira, mandare per pietà. Nessun mi lasci, assistetemi adesso. Adesso intorno tutti vorrei gli amici. Il caro Erbace. Artamano, dov'è? Questi è l'amore che mi servò fin dalla cuna, e il solo m'abbandona così. Non sei escluso fu dall'oreggio, infine ti chiesto il veleo. Venga Erbace, io la sommo. Come? Posseguiti il fuoco in quel sembiante. L'amico? Il mio cervello, l'amante. In questa guisa, Erbace, mi torni innanzi, ed hai potuto in mente tanta colpa nutrir. Sono innocente. Volesse il cielo. Ma se innocente sei, difenditi, dilegua i sospetti, gli indizi, e la ragione dell'innocenza tua sia manifesta. Io non sembrerò, non tacere. Ma l'apparenza orbace ti accusa, ti condanna. L'ho detto anch'io, ma l'apparenza inganna. Misero, che farò? Io deggio nell'amico più caro, il più crudele e orribile nemico. A che mostrarmi così gran fedeltà, barbaro arbace? Premi affetti tuoi, signor, non credo un innocente oppresso. Se mai degno ne fui, lo sono adesso. Audace, e col fronte puoi domandarmi amore. Perfido, perfido figlio, il mio rossor, la pena mia tu sei. Oh, fedeltà! Risolvi, e qualche affetto, se ti resta per lui, vada in oblio! Risolverò, ma con qual cuore, oddio! Innocente dovrai, tante le frati soffrì, misero frate! Confenderai! Monte sventurio, temo! Io non spero più pace! Ma fingo, io tremo! E tu... non mi guardi, oh padre, a miei padri soffetto, accusator senza niarmi, ma che possa accusarmi, che chieder possa il mio morir colui, che il viver mi darà. Thank you.

cercarne.